pensando di sistemare un barattino, uno, come diciamo si chiama, un galassiputo. Devo controllare quale componente che è in avaria, c'è quasi un anno quel barattino, figurati. Ho detto voglio sistemare, poi devo andare nei gettini consegnando alla GPC che è roba tua. Dopo l'ultima cosa che mi è rimasta è un lineare. Non lo faccio più, un tubo. Quando schiacci la portante in pratica si fa M e manda laterale, viene un potenziometro, deve essere mezzo sballato e quindi non si muove il relè. Beh, stai uscendo, è un genio mi pare, già stai uscendo bene, non è forte forte come l'aria, però non voglio più va bene, metti la manetta all'amplificazione. È un po' strana come l'aria, sembra soffocata la verità, non vedo più fare di più quelli di 1000, adesso c'è l'eco ed è la stessa cosa. Adesso l'eco non ce ne fa. Ma immagini quel baracchino a manetta, non è che venga molto comunque, è strano. Che baracchino stai usando? 2009, dice metti che a manetta non è più strano, non così, è un po' più poco. Stata di come lo senti? Sì, non so, il comporto a te che mi sono l'abito. Quindi, però non. Come applicazione la verità non dice nulla, forse è stata nel cimento chiuso con l'apparecchio che non c'è senz'altro, cioè la dice chiuso è per quello che è così. Capretta, allora c'è nel CP che c'è ragione io. Sentite che senso, ma non è che c'è tutta questa applicazione. Quella nel CP è facile, che sto parlando. È scritto 2012, lo so tutto, ma sai. Mi giri, quello è l'MC che sei attaccato. E vedrai come comparirà. E più c'è il segno della potenza. E dati 15 watt la M. Allora, quello della radio la LC è il VR12. Sì, VR12 c'è scritto. Aspetta, sto facendo la M per il grande regno. Sì, VR12 LC. VR14, quello che sono attaccato a lui, a fianco, è il VR14. Quindi devi toccare la MC e la LC. Poi quello del VAT è invece il 12. 2 per 13, ed è il primo proprio a fianco a un condensatore grande da 1000 microfarad del 16 ma non lo conosci subito. Siamo 2 per 12 e 14, c'è scritto 2 per 12 e 14, uno a fianco all'altro, guarda, lo vedi subito. No, sono tutti e due per la modulazione, sia uno sia l'altro. Devi girare uno e l'altro per avere più potenza di radio. Poi quello della potenza te lo dico dopo qual è. Adesso fai solo quei due, adesso il 12 e il 14. Sono uno a fianco all'altro. E faccio mettere la maletta, prima giri nel senso orario, poi nel senso antiorario. Una volta che giri tutti e due, te lo faccio vedere, se lo fa subito quando metto la radio, non ti preoccupare. Gira adesso nel senso orario, tutti e due, se la parecchia aperta, comunque c'è vittima da usare. Vabbè, quando sei pronto allora, dimmi non c'è problema, adesso lo ascolto qua. Non dite più basso qua. Ho capito, quello dell'autoparlante deve levare, no? Sotto l'autoparlante c'è il circuito stampato, dove ci sono lanciati tutti i componenti. Vedi, girato, guarda. Sì, ci vedi. Ma quello il cibo. Ma una cosa, guarda, dato qua insomma a casa, se lo c'è, non lo fare fare il cibo, il circuito lo faccio vedere io, come si fa. Se lo faccio io, così sei a posto. Avanti. Ciao Valerio, anche a te ben sentito, ciao anche Giuseppe Giangelo, anche a te, una mi stavo facendo, che non genio di fare la modifica delle barche non su delle LC, perché io penso che il video non è che sta pompando nulla come l'aria, mi vanno un po' pazzo. perché le famiglie sono come nel 300 quando si aggancia di tutto, solo che ha paura di toccarlo, stava tremando adesso. A te, ci sono io la salita e io tutto la porto adesso. Va bene, non c'è problema, quando sono con le tue due, sì, a Valerio, il problema, Natalino, ti saluta Valerio, Claudio. Natalino. Via, grazie, non c'è problema, gli assomino. Avanti il genio. Via, Valerio, sono già fatti Natalino, che stava facendo cosa? Sono già passati su quello per 15. Tante le mani ho in occhio sul 15, dimmi una gaggata, io dico la verità, ma mi piace, sei più basso del microfono normale, come spinta di voce, poi perché c'è cosa senti, dimmi cosa senti, io ti sento basso di modulazione, boh Antonello, questo, non so, chiede Antonello, io... E sono schietto quando mi chiedete i controlli di radio, perché non sono abituato a raccontare fauri, capito? Quindi a me non piace. Non hai modulazione, una modulazione brutta, senza tonalità, senza niente. Cosa? Può essere quel di M1000, boh. Guarda, le fai 7-0 tu con la tua radio, Natalia, 7-0, la tua è 10, la radio, la sua è manco 5. Cosa hai detto? Sei in basso di radio, sei in basso di radio, hai capito che sei in basso di radio? Non ha niente a che fare col microfono normale, poi non lo so, vedi tu. Mi ha detto Marco che vuole, ha fatto la DC per usare il microfono, quel tipo di microfono, e lui ha detto che non apre niente, allora usatelo così oggi, usa il microfono normale. Mamma mia, cosa hai detto? Ma hai fatto le connessioni tu? Sembra a posto perché non stai fischiando a posto, però io non, Mickey Gain sollevato di quella radio, oggi, Antonello, puoi dare un giudizio, un parere, perché se no sembra che sia io che non mi piace il microfono. Secondo te quello sta spingendo col microfono amplificato? Sta la radio chiusa dalle decisioni. Aspettava paura, se sta in attacco te lo faccio io, a me non mi avrei nessuna paura, per toccare in città. Aspettare, domani è stato sulla casa, tutto l'altro giorno. Se vuole venire qua, 5 minuti sono. Dopo la parete, vediamo i tuoi amici, contano se i contatti del microfono sono giusti, perché magari potrebbero essere anche quelli sbagliati, perché rimane troppo carta, non c'è la precisazione. Hai capito? Ma sono una pesteria mio, io gli amici tutti aumentati, sia nelle maglie del S9 che nel 2009 e nel 4000, tutti quanti sono toccati gli amici, se sono sempre non uscirebbero così tanto forti, cioè la nota come sia il 2009. Infatti non ho capito perché devi temere oggi, sai, c'è davanti a te, lo apre, ti deve solo regolare un trimmer all'interno della radio, non deve fare niente, poi Antonello è abbastanza pratico di queste cose, altrimenti non esci con quel baracchino, cioè hai fatto cosa, si scende come il teghiscio di un camper, anzi, attento, quello del camper è più forte di questo. E oggi se c'è il microfono, quel microfono ha bisogno di spinta, se tu non le apri le LC, non le dai più potenza di radio dall'interno, non li vuoi che bevi. Antonello è pratico, ce l'ha lui il 3009, ci sarà fatto, guarda Antonello come esce col 3009. Quindi vabbè, dai, io vi lascio 10 minuti che devo finire un lavoro qua a casa e poi riprendo, vai. Adesso mi attacco di questo, poi che ricordo il maglio S9, adesso mi attacco il 3009 e ci si attacco, aspetta due minuti, attacco l'antenna l'uno e la faccio all'altro, aspetta. Questo è il 3009, mio microfono solesta, guarda un po', a spinge. Certo che ce la faccio, affatto, sono a casa stasera, non devo uscire, quindi se tu vuoi avvicinare, vieni qua, te lo faccio, non ci metto molto a farlo. Questo è il 2009, fidati, con microfono salerta, a lei amplificazione, Scusa, guarda, ti devo mille con partire il salerno con il microfono, perché quando attaccavo le metro e cento nel mio 2009 usciva che era un treno, usciva. Addirittura avevo anche modificato anche il microfono del metro e cento, le avevo cambiato tutti i due trimmer di amplificazione, sia il primo dell'eco che il secondo che c'è all'interno. E la stessa modifica l'ha fatta Luca del Monte con l'apparecchio che usava lui, che era simile al 2009 che avevo io. Non c'era paragone dal metro e cento normale al metro e cento modificato, anche perché gli aveva aumentato le lici anche Luca, quindi figurati tu, una bomba è sempre uscito. Quindi per me è questione di apparecchio, chiuso quell'apparecchio lì, è un bel chiuso di LC, ecco perché non spinge, sembra soffocato il radio. Vabbè, già c'ho del coso qua, c'ho l'apparecchio nato vicino con le cuffie, mi metto che mi regolo subito, con le cuffie me la colgo subito quando la aumenta, una volta che l'ho offerto, capito, poi se voglio aumentare il watt, gli aumento il watt, se li voglio aumentare, se no glielo lascio così com'è, non cambia niente. E certo che ci sono, se sono qui, il ponte di M1000 e l'apparecchio, e così lo vediamo. Ok. Giù per giù, giù per giù. A voi. Per carità. Scusa di te. Ma tu non ci sei freschetto, eh? Non fatti scelto, eh? Guarda, come la canna da pesca. Dovrebbe essere buona. Io l'avevo usata l'antenna a canna da pesca lunga centimetri, figurati. L'avevo agganciata la telecamera, l'avevo messa al giampiero quando parlava giù la casa. E la punta della canna da pesca arrivava al petto, figurati tu, escivo bene lo stesso. Nonostante non ci avesse le radiali né nulla, attaccavo i piedi e stavi andando, uno in uno stazionario. Però l'ha costruita uno di fuori, una non so che lavoro faccio, comunque l'ha fatta bene, l'ho provata, poi gli ho dato a Stefano, perché è roba sua, quella usciva bene, non so se ci è messa a paragone la mantova vicino e faccia c'è la stessa vedo, la verità si dica, però io l'ho provata giù, a primo piano usciva bene. Dirti una cosa, la Energy 50, quella che ho regalato io su all'alberghiero, 80 euro, e c'è, ti pigli anzi forse costa anche di meno quella, la mezz'onda, ti prendi la mezz'onda che non c'ha radiali, è lunga più o meno la stessa cosa, mi sembra, se non mi ricordo male, 5,70 metri, se non mi ricordo male. È leggera, leggera, pesa neanche 50-60 grammi e già ti va bene, anche per il pallone guacciale va bene, non c'è radiali, ci benissimo, capito? Bisogna vedere quanto regge il vento, tu che sono buone le antenne, devi metterla sopra un pezzo, se dove la metti prende il volo, è inutile che la piazzi. Allora è successo così, ha messo la Ringo e gliela ha portata via il vento, poi la Game Master lo stesso, gliela troncata. Ha fatto tigre gli altri motore, se ne piglia mai stata in pieno, gliela troncata. Infatti se la pepita l'aveva comprata. 500, e quanto la mezz'onda tiene? Allora, e quanto è che costa la Game Master? E quindi? A te io stava controllando per quanto viene la Game Master. E tu mi ricordo la Game Master, aveva preso il volo, ha portato invece a lo stile. Vabbè, ma da lui non c'è quel problema. È molto riparato. Dopo c'è una spesa troppo eccessiva. Non lo so, Italia. Per me lì basta che metti sull'antenna come c'è Marco. Va bene. Allora, antenna come quella c'è Marco, ci mette lì a prendere. Il problema è risolto. Capite? Va bene. E sei tranquillo, già tendi di 360 euro, di 7 euro basta, ma antenna para 27. Dovevo salire su anche porca miseria, e ci sono gli ascensoristi che se non facevo manutenzione all'ascensore appena ho fatto io. E ti voglio vedere se è da piedi. certo poi scendo a piedi, ma non posso massare. Capito? Ma va, vedi, non fa. Devo portarlo qua su. Già vado via lì, che ha tutte le balle. Sì, guarda che qui dove abito io l'ascensore sta avvenendo due o tre volte al mese, perché hanno il vizio di mettere quello più denso, e quando comincia a esserci freddo fuori, per dire 10-12 gradi, quando sei in ascensore non sai se riesci a uscirne, perché di solito si blocca sempre, o in alzata o in falata. Un giorno sono rimasto chiuso, già prima ho fatto per la faccio 50 kg con me dentro, altri 80. Prendiamo l'ascensore per salire su dalla meno 2, ma a primo piano sono arrivati tutti e due. E detto, era di domenica, non c'era manco un cane, tu immagini, abbiamo chiamato, non pigliava il telefono, ma allora abbiamo preso un giampiero, beh giampiero, la mangiare gli abbiamo, va bene altrettanto. Quando l'ascensore va al piano, prendiamo e ce ne usciamo, e così abbiamo fatto. Tutta la notte ci fa vedere un ascensore, questo è un ascensore a montacarichi, questo 800 kg tiene, 800 kg, 8 quintali, capito, 11 persone porta, non è un gioco, quindi vanno attenzionato perché si usa anche per i pesi, quando si trasloca qua buttano tutto dentro l'ascensore, è enorme, ci stanno 11 persone, quindi è chiaro che vanno attenzionato, sicuramente stanno sostituendo le cinghie, qualcosa su. Perché ultimamente stava fischiando, faceva come un restrano, e sono su in sala motori che deve essere stanno cambiando le cinghie e qualcosa, capito? Perciò è più pericoloso del tuo, sono 25 metri d'altezza alla cabina, 25, 3, 28, sono 28 metri, capito? Quindi bisogna stare attenti. Va bene, fu un po' Natalino, vedi un po' cosa vuoi fare, antenne da prendere, perché l'antenna si piazza subito immediatamente, capito? Non so perché non ne ha più la TBC, dove l'aveva presa Marco la TBC? Sì, già c'è la TBC, sono andato con Franco l'altro giorno, ho chiesto, la 50 con la vecchia io, 80 euro, quanto l'ho pagato io? L'ho pagato 89, un euro in più, in pratica Franco, California, la stava là. Uguale a quella mia, se tu prende l'altra costerà qualcosa di meno senz'altro. Secondo me conviene comprarsela qui a Sassari, intanto non è cambi molto la cosa. Ti fa la manta qua un'altra gabbiuria, ne ponendo un'altra antenna, ne si la pone in camera da letto, tanto sopra non ne fa mettere. No, la manta va già tolta, non c'è più sopra il tetto, sono andati, è andato lui insieme a un coso a toglierla, l'hanno già tolta, volete in pratica, non è che la tagli in alto l'intera, non è scesa a pezzi, quindi, e vuole metterci la Mercury, 80 euro, quindi vedi tu, chiunque ce li ha l'altro mio, ne ha due o tre di quelle antenne. No, ho capito, vabbè, quindi tu rende all'attacco, ora l'antenna, ora tutto, forse all'ozia. Franco ha detto c'è le buone antenne a Gabbiuria, ha bugato la manta, va a ponere un'altra, ma tu io non lo so, non lo voglio sapere. Marco non si è sentito, quindi Marcolino Condo, come lo chiamava Falcone, Marcolino Condo, sì che mi capisci, facciamo io che la casfetta, per evitare, io si fa tardi, porca miseria, devo salire su. Mi serve roba, vediamo se ne andare in presa lì, e io che sono su in sala motori, quindi no, c'è il coso, il tampone nel, come si chiama, l'ascensore in manutenzione, attaccato, quindi non si può usare, speriamo che duria poco, e si avviali. Mansarda, non so la mansarda sopra io, mi serve roba, ci devo salire della roba da qua e ne può prendere un'altra. capita di non tutti in tali paesi come Etrica. Ma la spesa scioglie a non bene oggi 58, cioè. Ma tutti i va bene quello, sono pochi metri. 30 metri. Ma hai detto che ce la mi c'hai pure l'antenna? 30 metri. Più 30 metri io. Caro mio, 30 metri avete tanto il 213 o la Camille. Se vuoi tirarne piedi, dice no. 30 metri e 58 parte troppo. Ma io ne ho solo 15 metri capo. E ora ti. Perché l'antenna ce l'ho vicino alla. Alla voce barattino. Sì, io per 10-15 metri non succede niente. Ma 30 metri sono già tanti. Ma sono 30 copie da 12, 213. Io ti ricordo quando abitavo un po' piano, 30-40 metri di po', 100 metri di cavo dopo calare, 5, non ho dovuto fare due calate, 50-50. Quella per la mantova e quella per il polo di 45 metri. No, io ho risolto con la. Commutatore elettronico, ne ho una calata solo, 5 antenne, una calata, capito? Perciò ho risolto il problema, c'è un lavoro fatto alla grande, veramente fatto alla grande, c'è voluto tempo, ma c'è l'alimentazione su, l'ho mutato laggiù elettronicamente con la Meditron. Mi cambia le antenne a 3, quindi non ho più 15 problemi di 10.000 carattere, ne ho una solo e basta. 250 euro, io l'ho preso, diciamo, quasi usato, questo era ieri, e io ce l'ho preso a 8, a me mi ha passato questa a 5, ma mi è costato 150 euro, però a me mi serviva, non è facile a fare collegamenti. Ma li ha fatti veramente, li ha fatti Maurizio con Fabrizio a pochi fili, con un cavo fine. Ma sapete, non era cosa per me, se non me lo facevano loro non l'avrei mai fatto io. Però è bello, bello. Sopra ci sono gli agganci per il PL con la scatola del relè per esterno, stagna, capito? Con motore giù lo accendo, do l'alimentazione e con motore elettronicamente fa e nel commutare antenne poi c'è il neutro, chiudi, possono fare i fulmini che vogliono, capite? Perché non c'è commutazione dell'antenna, c'è il relè stacca, capite? Ma un bel lavoro, finalmente, se non avevo poco di carri di discesa. Per carità, c'è anche la mantova attaccata, quindi. Ehi, Natalia, così è. Non c'è altro nessuno ad Alghero che mi chiama, ci sei tu in compagnia di Valerio, poi chi c'è? La zia, la sorella, cugini, parenti, non c'è nessuno? Non ho capito. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Voi non sentite, sentite solo a me Antonello, gli altri non li sentite? Hai l'altro microfono, cosa è successo? Risumato? Ah, così è, verso l'antenna. Stai facendo benissimo, non bene, benissimo, ma non avevo dubbio che quel microfono non avesse niente. Se no io non sono abituato a dare cose che non funzionano. Stai riuscendo benissimo, quello è l'MC85, non lo toccare da così com'è. Però devi ascoltarlo Valerio, perché se Valerio ti dà un consiglio devi ascoltarlo, perché non è che è più grande di te, però c'ha abbastanza esperienza in radio, quindi stai andando benissimo, non bene, benissimo, alla grande. La modulazione che deve dare quella radio è questa. Valerio c'è. No, va bene, adesso va bene, prima non si capiva niente quando parlava con l'MC85, vale, ti ascolto anche se è antenna, quindi non ti preoccupare, anche se sei basso di potenza devi sempre bene qua, capito vale, ascolto molto bene adesso, con la speranza che non tocchi niente, cioè che funzioni sempre così, non un giorno bene, un giorno male, ma io penso di sì. Antonello, senti a Giuseppe D'Alghero, come sta uscendo di radio secondo te? A voglia che ti sento, esci benissimo di radio, 5 amplificata. A te ha risposto, mi Giuseppe, perché se tu c'è l'antenna di gomma, Antonello c'è un'antenna buona come la mia. Ah, così, quindi avevi legato il piede al tavolino, al microfono. o del PL, perché anche il microfono va avvitato bene, non va messo l'attacco e basta, devi avvitare bene la ghiera e tenerlo fermo il microfono, capito? Senza esagerare, sia che rompi l'attacco della radio, non è che va stretta, che non sia mollata, non è va stretta con la pinza. Il PL lo devi stringere bene e lasciarlo stare fermo, in modo che non balli. Santiago 9 più Radio 5, sì, perfetta. Adesso ti ho registrato, vediamo quanto duri. Ho capito, vabbè. Comunque adesso stai andando bene. Natali, tu non lo senti a Giuseppe, no? Infatti speriamo ancora per poco. E poi siamo a posto. Avanti, Antonio. Basta che sto provando a cacciare dei capi. Ti detto subito. Cappa. Io controllo se questi hanno finito, aspetta. Sì, ma cosa sta abbassando? Abbassa ancora che cosa? Cosa stai abbassando? Il Mickey Gain, dove c'è scritto Mickey? Dov'è? Al massimo? Allora non lo devi mettere al massimo, devi metterlo sotto la C, non al massimo. Col microfono normale devi metterlo al massimo, col microfono amplificato sotto la C. Prova, prova, prova. Sembra di sì, vediamo se non fischia. Hai toccato il Mickey Gain della radio o hai toccato il Mickey Gain del microfono? Ecco, allora lasciala stare così, non toccare più niente. Il processore è inserito, sì, il tastino proce dentro, sì, ma stai sempre fischiando. Dove ce l'hai il microfono? Vicino alla radio, allontanalo un po' dalla radio. Ma cosa? Mamma mia, Giuseppe, non mi fare dire parolacce, non lo puoi mettere sopra, deve metterlo a fianco. Non ne ho mai visto io microfoni sopra le radio, Giuseppe, mamma mia. Sopra il frigorifero? No, non va bene, sta sempre fischiando. Non vanno bene i microfoni così come li usi tu, Giuseppe. Devi avere uno spazio, te l'ho detto, da quando te l'ho montata quella radio. Quella radio deve andare da sola e deve avere spazio per avere, appunto, anche lo spazio per il microfono. Il microfono deve stare al lato della radio, lontano dalla radio, non attaccata alla radio, non sopra. Mamma mia, come sto. Prova, Giuseppe. No, non va bene niente, fischia sempre. Lo dici più, mi viene. Lo dici più. Lo dici più, mi guardi me, Giuseppe. Lo dici più. In italiano la disperazione. No, Giuseppe, stai toccando cose che non devi toccare. Stai toccando cose che non devi toccare. Adesso ti stai abbassando di modulazione. Non devi toccare né il microfono né la radio. Io ti ho detto di mettere il Mickey Gain sotto la C. Basta, finito. Dopodiché l'operazione da fare è togliere il microfono da sopra la radio e allontanarlo il più possibile. Punto. Cazzo, adesso sei sparito di radio. Prova a pigliare la macchina, venga al ghiera e ti culo a colpi di para. No, Giuseppe, non va bene, hai toccato una cosa che non dovevi toccare. No, lui ce lo capisce, Sassarese, Natali, non ti preoccupare, lo capisce meglio di me, che ha lavorato 40 anni a Sassari. E non va bene, Giuseppe, andavi benissimo come era prima. Lo dici più, mi serve di me, mamma mia, ma quando mai non si riesce a trovare una scrivania un pochino più grande dove ci sia la radio, l'alimentatore e il microfono, basta. Tutto il resto lì è da buttare nella mondessa, non te ne fai niente di tutta quella roba che c'hai. L'alimentatore è quello della Proxel da 25 ampere, Natali, che gli ho dato io, capito? Gliel'ho dato io. E funziona molto bene, tra l'altro, quindi non credo che faccia rientro l'alimentatore. Sono quelli switching e il microfono, le MC85 è micidiale, è peggio delle MC60. Secondo quello che è, vede, si porta dentro la modulazione. C'hai la colonnina esterna per caso anche, Giuseppe? Hai l'altoparlante esterno per caso vicino al baracchino, alla radio? No. Porca miseria, stavo andando bene, Valerio. Come si è chiamato di Valerio lui? Questa scrivania piccolina? Non ha niente quel microfono, Giuseppe. Sono così quei microfoni, capito? Sono così quei microfoni. Ascoltami, io adesso non ce l'ho presente, non mi ricordo. Dove c'è scritto Mickey Leven, leggi, mettiti gli occhiali, mettiti prima gli occhiali e leggi. Dove c'è scritto Mickey Leven, nel microfono però, ci sono dei tastini, a quanti tastini ce l'hai? A quante lineette è il microfono? Dove c'è scritto Mickey Leven, la manetta ce l'hai, abbassalo di due tacche, porca miseria, abbassalo, abbassalo ancora. Ho abbassato, io non sto abbassando niente, non ho capito cosa stai abbassando. Mickey Leven, Mickey Leven ce l'hai a manetta. Di solito io lo tenevo a due tacchette bianche, quelle tacchette targhettine, quelle linee che ci sono. Due linee io lo usavo, due linee, tu ce l'hai a 10, mettilo a metà, non sta passando niente. Non capisco, deve abbassare per forza, deve abbassare per... Non stai abbassando neanche la radio, quindi non stai toccando quello. Mickey Levin c'è scritto, Mickey Levin. Ma non sta abbassando, Giuseppe, non sta abbassando. Ascolta me, invece in quei tastini, quando tu l'accendi, le posizioni, c'è scritto, praticamente alto e basso, la tonalità del microfono, ce l'hai alto o basso? Sì, nella base del microfono, in basso, dove tu accendi il microfono, no? Dove, quando tu accendi il microfono, c'è anche un altro tastino a fianco, in che posizione è quello? È quello che prende al centro. Mettilo nell'altra posizione, quello del tono, tiralo su, è tirato su, e quindi le posizioni sono giuste. Ascolta, ma non è che c'hai anche il compressore inserito del microfono? No, è disinserito. Perfetto, deve andare a zero. E deve andare a zero. Il processore invece ce l'hai inserito? Dove c'è proc della radio, è inserito quello. Allora Giuseppe, facciamo una cosa, disinserisci il processore della radio, disinseriscilo, vediamo se fischia. No, cazzo, vedi che adesso l'hai inserito il processore, non era disinserito, adesso è attaccato il processore. Abbassa il microfono, metti il microfono quasi tutto a zero, è quello che ti ho detto, se l'ha inserito il processore. Tu mi hai inserito il processore, mi hai fatto sordo. Abbassa ancora il microfono, lascia il processore inserito, te lo tolgo quel tattino, vengo ad Alghero e te lo tolgo quel tattino. Deve funzionare col processore inserito a quella radio. Quando è dentro, ti ho detto, è inserito, quando è fuori è disinserito. Abbassa il microfono ancora, no, non esci più. Sono passato del tutto. Ce l'ho 88 anni, 89, Giuseppe, hai abbassato troppo, un pelino, tira su un pelino, ti ho detto io lo tenevo quasi a 2, tiralo su, ancora un pelino, tira, cazzo, non stai uscendo più, non so cos'è, Ducato, vale, aiutami. Sì, ma hai capito cos'è? Gli ho detto, il processore inserito ce l'aveva disinserito, quando l'ha inserito mi ha fatto sordo, tira sul microfono Giuseppe, Mickey Levin, tiralo su. Buonanotte Lugazzaro, tira la manetta, metti la manetta, cazzo, non stai uscendo, non lo so, stai toccando, non ha spento il microfono, secondo me ha spento il microfono, Giorgio, madre del Dio, sempre strada, è così semplice quel microfono, con l'equalizzatore disinserito è un microfono normale, c'è Mickey Levin, devi tirare sulla leva, processore inserito, era una bomba, l'ho sentito, mi ha fatto sordo, c'è solo da abbassare il Mickey Levin, ora hai abbassato tutto, hai spento tutto, cosa ne so, non stai uscendo Giuseppe, stacca di nuovo il processore, stacca il tattino del processore, prova, nulla, non è quello, reinseriscilo il processore, reinseriscilo, rimettilo com'era il processore della radio, dentro il tattino, dove c'è scritto approccio deve andare dentro, non fuori, dentro. Spegni il microfono e riaccendilo, spegni il microfono e riaccendilo. Ma che cazzo è successo? Non ho capito. Ma Giuseppe, hai toccato per caso le posizioni del microfono? Guarda che quel microfono c'ha 4 uscite, la posizione di rovescio qual è? La 1, la 2, la 3 o la 4? La 1, la 2, com'è? Guarda che non hai toccato quello. Giuseppe, no, mi viene di ansia. Per me ha chiuso le il livello del microfono, perché stavo uscendo bene, c'era solo da abbassare leggermente il microfono, boh. Capito? Quello c'ha le due uscite, no? Dietro le MC85, in una è collegata, nell'altra è neutro, non c'è niente. Quindi secondo me ha toccato la leva, l'ha solo portante. Beh, non c'è niente da toccare lì. L'equalizzatore parametrico è disinserito. Sta andando solo col microfono e la preamplificazione del microfono e il processore inserito, quindi. No, Giuseppe, siamo punti a capo. Sì, adesso sì. Adesso tu cosa stai usando? Il microfono normale. Allora, quel microfono, ti stavo dicendo, tu hai chiuso, c'hai due posizioni, no, c'hai dei numeri, 1, 2, giusto? C'hai dei tattini rotondi dove schiacci, 1, 2. Guarda che una posizione non funziona di quel microfono. Secondo te? Allora, quel microfono ha la possibilità di usare due radio o Kenwood con lo stesso microfono, ok? una linea è collegata, come vedi tu c'è un cavo solo d'uscita, altrimenti dovresti averne due, va bene? Quindi se tu disinserisci la linea, un numero 1 o un numero 2, il microfono non va in trasmissione. E tu secondo me hai toccato quel tattino rotondo, deve andare tutto dentro, tutto schiacciato, e l'altro deve essere in fuori. Uno sale e uno scende. Mentre stai modulando, pigiami uno di quei tattini, ok? E poi molli il microfono, molli la portante. Non me lo ricordo. Comunque quelli sono le linee del microfono. Adesso non mi ricordo tu quale linea c'è collegata, la 1, la 2 o la 3. Ok, uno di quelli tu hai toccato. Non ho dubbi. Il processore inserito è. Vabbè, vediamo. Riattacca il microfono. Scusatemi, ma Giuseppe, ci vuole un po' di pazienza. Oh, e qual era il pulsante che tu avevi disinserito? Fammi capire, l'1, 2 o 3? Allora sai tenere il dito fermo, Giuseppe, che ogni tanto manchi, tieni il dito fermo, se no ti ho detto usa il lock, c'è scritto lock, tu pigi e lo rimane fermo, poi vai di nuovo e lo togli. Bene, bene, bene. Allora abbiamo detto, il processore ce l'hai inserito, giusto? Ok. Il mic gain della radio ce l'hai sotto la C, C, C come Charlie, quello slider deve andare sotto la C, sotto la C, ok? Non tutto al massimo, sotto la C. Perfetto, adesso, microfono, non toccare niente, tu segui a me, non ci mettere quelle dita grandi che c'hai nel microfono, segui a me. Dove c'è scritto mic level? In quale posizione hai lo slider del mic level? Allora, per il momento non sta fischiando, ok, perché era manetta e quindi fischiava per quello. Adesso lascialo così. Se dovesse ripresentarsi il problema, lo abbassi di altre due tacchette, ok? Oh, no tocchese, no tocchese. Ricordati che quei pulsanti grigi, rotondi, quelli, adesso quale c'hai tu inserito? Lo vedi qual è quello inserito, quello pigiato in dentro? Qual è? Che numero è? Allora, la linea di quel microfono è il numero 1. Se tu quel pulsante lo disinserisci, il microfono va in portante e non esce di radio, perché non c'è collegato linea, non c'è collegata la linea del microfono. Vabbè, involontariamente Giuseppe, involontariamente l'hai toccato, se non stavi uscendo, come sei andato a pigiare il tattino numero 1 che l'hai inserito bene in dentro, il microfono ha ripreso a funzionare, quindi involontariamente dico, però l'hai toccato, se no quel microfono è così semplice, che è una fesseria usarlo. Va bene, ah? Ma ora non ti uscendo. Giuseppe, io ti ammiro perché sei una persona splendida, guarda, e per l'età che hai sei anche troppo attivo, però non tocca se. Antonè, come lo senti adesso? Adesso va bene. Ui, ui, ui. Non lo devi mettere al massimo quel microfono, lascialo così come adesso, ok? Nel caso si dovesse ripresentare il problema, noi cosa facciamo? Abbassiamo appena appena il microfono e tiriamo su i mic gain della radio, ok? Oh, Mare, tu che sei vicino, senti bene, sì? Dove l'hai messo? C'è un rientro di RF lì allucinante, non capisco che cosa cavolo sia. Vale, non so che cosa sia, quel microfono si sta portando un rientro, a volte lo fa, a volte non lo fa. No, no, di quelle rotonde. Che miseria, vabbè. Devo salire un attimo sui mansarda, io che devo prendere roba, che finalmente hanno terminato con questo ascensore che stanno facendo manutenzione. 5 minuti e sto arrivando, ok? Antonio, riprendi tu, dai, fate girare con Natalino, con Valerio. Adesso no, adesso lo fischia. Adesso va bene, dai, magari sono spostati al 15 a fare qualche prova. Tu riprendi con Natalino, scendo subito. Sì, parti Natalino. Ma visto, c'è il bambino nascosto, vai, nel caso chiama Eugenio, già sono qua. Sì, riascendo subito, no, Natalino gli altri rispondo, magari sta facendo cosa, ma già è qua. Là. Sì, io ci sono sbattuto la prima. Confondo, confondo, confondo, confondo, confondo. e mi sta chiamando Eugenio. E io sono appena rientrato, mi sono andato a comprare le sigarette, dimmi Eugenio. Ehi, Popo, dove sto salendo? Vabbè, io sono a casa, sono uscito due minuti a prendere le sigarette qua sotto e poi sono salito subito. Ma io non ho capito qua. Tu stai vicino a Antonio Conti, anzi fai direttamente da via Milano, passi da via Milano fai prima. Chi pensa a Antonio Conti? E ti hai visto. Gli avevi l'antenna. Capito? Quando una volta che fai la rotatoria, entri via fatta a passo e vedi la mattina piazzata con l'antenna VHS. La riconosci subito. Io abito proprio sopra al bar. Proprio tu tieni acceso che ci siamo. Sì, ce l'ho acceso, sono qui, non ti preoccupare, sono qua. C'è poco da sbagliare, basta che sali da via Milano, fai prima. Entri per Italia, fai via Milano. E lasci la rotatoria prima di arrivare a Claudio, sali più su, alla seconda rotatoria giri. Ma dove c'è la scarpa prima? Le piazza di scarpa, dove c'è la scarpa prima? Sopra la scarpa abito, esatto, ci sei arrivato, dove c'è la scarpa una volta che ha fallito, si è mangiato i soldi, vabbè. Vabbè, sto arrivando, sono già di fuori. D'accordo. Oggi abita sopra il bar dove siamo andati a bere con Marco. Ah, sì, è vero, sì, è vero. Vabbè, non ci siamo, non ho e ti siamo andati a lì, no? Ma hai anche chiesto a questa antenna di chi sono? Ma ragione, siamo andati a no, io non c'è da sbagliare. Una volta che sotto gli scendo giù io a prevervarlo nel cancelletto. Salito sei sotto a là. Sì, sono salito. Beh, sono tutto a posto, perfetto. Poi mi serviva la roba. Mi sceso un cestino che mi serve la roba, ma... Sei a posto. Cestino per metterci la merenda. No, è un certo che mi serve per mettere i documenti che devo fare un po' di pulizia nell'ufficio. E c'era un certo vecchio, capito? Però col tappo, quindi me lo prendo, me lo porto alla bocca. Sì, andate. Almeno fai un po' di pulizia. Dove sei arrivato? Ho fatto via di fresco, man. Ok. Il segnale comunque è buonissimo, va. Con il microfono normale, sì. No, DM1000 sempre. Ok. Sembra che vada un po' meglio. Ma ce l'hai attaccata la bocca o no? Ehi, adesso sto attaccata la bocca. Vedi un po' cosa dice Antonello. Ormai non sta spingendo niente con il microfono. Cosa vuoi che si dica, fratello? Non lo so nemmeno io. Una cosa, l'apparato è nuovo al negozio, il microfono è nuovo al negozio, vabbè, non è detto che sia così, comunque, vediamo, dai, adesso vai al tonnello e fate aprire le cipolle, vediamo. Cambio! Ma pizzava però, lo sai, ogni tanto. Come? Ogni tanto c'è il pizzano. Ma questo è un tipo del baracchino, non è del microfono. Sì, io lo so che bip del baracchino, io lo so come si fa. A volte lo fanno, non è che lo faccio sempre. Poi se ti ascolto un po' meglio, quello perché sei vicino. Babbo, sono quasi all'entrata per l'Italia. Va bene. È possibile che ci siano i risultati del microfono? Non so, ma guardiamo il baracchino, facciamo la briscola al baracchino, poi ti controllo quel microfono. E ci sono due trimmer dentro, uno dell'amplificazione e l'altro dell'eco. Da regolare, magari quelli sono anche bassi. No, è strano, non sento neanche far l'ascolta qua. Perché per l'ascolta c'è quell'apparecchio. Come? Perché ho detto anche il ballo ascolta a quell'apparecchio. No, non lo so, nell'altro baracchino sei balacco. Se hai terminato per guardare il mio, ballo ascolta non esiste quanto so io. Poi non lo saccio che terminello che c'hai tu. Ma chi l'hai dato tutta la ripetizione dell'eco? Non lo sapevi? Ma diventa una Iesia. Io sono, bassa come voce, la sento Antonio, o è la sua voce, non so, non sento corde vocali, non sento spingere, si fa vedo io che c'è il microfono di cucchio. E c'ha le leci basse, si è passato un po' cato la modulazione più che altro. Adesso vediamo, prima controllo l'apparecchio, poi controlliamo il microfono, se ce l'ha invertire qualche filo si lo invertisco e cioè non c'è problema. Va bene Antonio, metto a posto questo ragazzo. D'accordo, d'accordo. Mi ha cacciato la polizia col microfono in mano. A me cosa ti ha detto? Niente. Niente, che culo. Va bene, va bene. Sviluppa foto, mamma doveva fare delle fototessere per un documento. Sì, fototessere 5 euro, pare anche buono come prezzo. Poi abbiamo preso due fesserie da Auchan, proprio due cosette, né? È stato per uscire, era. Guarda, ah, guarda adesso com'è, ok? Aspetta un attimo. Ecco, guarda un po' come sto uscendo. Se ti metto le tabelle, guarda un po' la pompa. Sì, adesso sì, però devi far parlare a lui, Antonio. Aspetta che faccio una regolazione dietro. E io, poi fai parlare a lui. Ricordati, Antonio, ricordati. L'autoascolto va messo a zero. A zero. L'amplificazione la messi, la metti quanto vuoi tu e poi fai parlare lui. Ehi, aspetta un attimo. 1, 2, 3, così, guarda così come adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, aspetta, adesso faccio parlare a lui. Marco, o Claudio è uguale. E beh, come sta andando adesso? Rispondi tu, ma. Beh, tu non puoi rispondere, c'è l'altoparlante professionale. E ok, toni leggermente bassi, cioè come dire corposa. E quindi stanno male? Per me è cupa. E Popponi diciamoci è meglio perché la voce da Topo Gigio, capito? E quindi sta uscendo male, va? Ho capito. Non lo so. Massimilia, com'è per te? L'ho già detto, ciao Marco, per me è cupa. Boh, ma non sarà che chiudi M1000, no? Boh. Per me è meglio il microfono normale, poi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, guarda un po', dov'è? Tu vai bene, Antonè, tu vai bene come modulazione, è lui che c'è la modulazione in cupa. Io vado bene, e invece lui va male, adesso ho messo solo per questo, no? Ora, però. Ecco, fai parlare a lui adesso. È la mia voce, anche cupa, boh, non so cosa dirvi, boh, non lo so. Non mi piace, sì. Non ti offende, non mi piace. Metti il microfono normale. Adesso metto normale, eh? Eh sì. Forse lui, Tony Cupi, ci voleva, sai quale, lo ZG M93. O 95. Non so, fammelo sentire col microfono normale e poi ti dico che cosa c'è. Adesso microfono normale. È molto più chiara e meno cupa. Ma è molto meglio di quando ci aveva le leci chiuse. Vabbè, molto più forte. Ah, no, capito. Allora il microfono, dai, rimetto quello originale. Oh Eugenio, tu cosa devi fare dopo che vai via da Pomponio? Niente. Non è che puoi passare da Antonio Scarpa, rivenditore di elettrodomestici, che ti faccio provare un microfono mio. Va bene, e dov'è questa cosa? Che via Prunizzetta, vabbè, già passo. Non so se è navigatore, via Prunizzetta, angolo, via Savoia. Via Prunizzetta, angolo, via Savoia. Ma io il furgone, lì il parcheggio non ce n'è. Oh, la metti in doppia fila dove ci sono i cassonetti. Si fermano sempre i furgoni di Scarpa lì. Così si portano i vecchi cassonetti, fanno poi. Aspetta, ci metto questa delta, vediamo com'è. Che cosa? Ha detto che mettersi a delta per vedere come esce. Sì, probabilmente, in poche parole, Eugenio ha una modulazione più cupa, più corposa, mi. E quindi ci vuole un microfono che abbia più acustici, pochi barauli, mi. Sì, è con questo adesso. Stai fischiando, però. Antonè, leva tutta la ricezione che hai. Leva gli barili, avvicini accesi. Sì, ma a me cosa me ne frega di farmi sentire il saletta se tu l'hai detratta in macchina. Oh, quanto è? Fatemi capire. Stavo solo provando a vedere se la leci sta pompandomi. Ma c'è un demonio con saletta, è veramente forte. Devo abbassare addirittura la ricezione. Quindi ciao, vai, non è questione di macchina, questo è un di cazzo di microfono di M1000. Ehi, non va bene di M1000 per lì, non va bene, non lo so. Ok, va bene, fidati di se passa qua che ti faccio provare lo ZG. Demonio. Va bene, aspetta che chiudo l'apparecchio e poi si avvicina da te, Marco. Oh, già era il trimmer giusto, sì, Antonè, non ti sbagliare, mi. Sì, se mi fossi sbagliato non sei mai uscito in radio. Vabbè, da un po', guarda, sento attimo la stanza, figurati il microfono. Ok. aprile. Ok, va bene. Fate pure voi di passare qua. Già lo troviamo posto per il furgone. Ci sono i furgoni in scarpa, stanno lì tutto il giorno, non ci può stare lui. Vabbè, io intanto ci sentiamo la poccia. E andiamo immediato. Un attimo che vado in macchina a prendere una cosa, Quindi Massimiliano, se con quello lì è cupo, secondo te con lo ZG che esce acuto sarebbe meglio, vero? Glielo vado a prendere dalla macchina. Oh, non ve ne andate però. Massimiliano, Claudio, rimanete un attimino che proviamo lo ZG. No, qua io sto facendo cosa, vai in macchina, vai tranquillo. Eia. Vado a pigliare lo ZG dalla macchina, un attimo. Oh, Gianni l'ho più rotto. Oh, Gianni, sei entrato adesso? Non l'hai sentita la prova, no? Superstar con DM1000. Allora, Pomponio, che la voce fina esce bene. Però Eugenio ha una voce con toni bassi e esce cupo. Che va bene, capito? Il DM1000 lui non va bene, secondo me, solo la sua non va bene. A meno che non sia un esemplare, sai cos'è? Dopo gli ho detto passa qui, gli faccio provare lo ZG da macchina, lo ZG M95, che quello esce acuto, voglio proprio sentirlo, voglio fare la prova. Ma lo ZG l'ho preso e ci fa male. Ma sai cos'è? Vabbè, poi vediamo. Aspetta, dai, fatemi andare in macchina. Vai, vai. Aspetta, mangia il cane. Così chi tu? Sono scemito, avevo da mangiare il cane, hai visto? No, lo mangia presto, se non digerisce. Aspetta un attimo, di qua. Dai, lo mangia le ore. Lo sei bene. No, non digerisce bene. Poi, sta un buon giocato, mi si deve sotto la pallina. La tira per la prima, ma ce l'ha subito, poi rimbalza per la prima volta. Che ci dico, dove sei avviti chi? Dove sei brinca l'uscì, si colga la batteria. Ecco già, se non devo aiutare per salire sopra il letto, aiuto. Faccia bene. Aspetta un attimo, che devo mangiare. E poi arrivo. Cosa c'è da veloce? Le crocchette, ho detto, questa settimana le crocchette con le mischiette con il prosciutto. Con il prosciutto al cocco. Ma io non ne ho mai dato il prosciutto al cocco. Il veterinario ha detto. Sì, sì, sì. Il prosciutto al cocco lo prendo io. Capito? Quindi il prosciutto al cocco, alla fine il prosciutto al cocco lo faccio tutto a pezzettini, ovviamente me dai crocchette. Allì che arrivo già, che mi fai tenere, ma è da dire, io ci ho visto a te. Vai, vai. Claudio, si è sentato un attimo. Chi è? Eccomi qua. Ho preso tutti i microfoni. Allora, situazione, Eugenio è partito da Pomponio. Sembra sia Favidendi al muro. Ma com'è che parlano? No, vabbè, chiamo, c'era Claudio e non mi rispondi. Chiedevo se è Eugenio e che è uscito da casa di Pomponio. Io non ti ho risposto perché non sapevo niente. E Claudio non c'è perché stava a mangiare la carne, che mi ricordo il muro. Ehi, Antonello, Pomponio. Vabbè, dai. Grazie che siamo andati al bar a pigliarci un caffè. Nel caso già sono qua. Sono curioso, sai cos'è già? Sono curioso di provare il mio DM1000 per vedere se è uguale e poi provare lo ZG sperando che le prese microfoniche siano identiche. Perché se un vecchio 3009, proprio il vero 3009, l'unico, non Joe Bix, capito? Non so se siano uguali gli spinotti, se no è un casino. Mi stai già venuto a provare. Non sono abituato a tutta questa luce. Pensa, sono le 6, eh? Cos'è? 6:30, sì. Sì, sapete. Sì. 7:25 e c'è ancora tutta questa luce, non sono abituato ancora. E tu non la toccare a radar ancora. Guarda così. Poi quando fa qui attacchi il radar. Seia, il sistema guida a ultrasuoni dei pipistrelli. Radar, quello che io chiamo radar. Sì, è un radar. È un radar alla fine. Loro usano gli ultrasuoni, invece i radar degli uomini usano le onde radio, ma siamo sempre lì. Si basa sul rimbalzo delle onde radio o dei suoni. Ci mette, calcola quanto tempo ci sta il suono a tornare e calcola la distanza. È semplice. Ai mia, riesci a vedere? Antonello Di Ossi, chi sei? Chiamata per Antonello Di Ossi. Non c'è ancora, sto lavorando. Ah, vediamo se, perché il lunedì forse riuscivo a passare, che gli devo dare quel transverter, che non trasmette, riceve solo, a lui interessa per ricevere, col baracchino. Non fuggire. Sì, questo era un leggendario Electronic System, mi pare di Bologna era, fa 40-45 metri, capito? Ok, ho detto se Eugenio è andato via da Pomponio, nulla sai. No, provo a mangiare il cane. Ah, paghissimo, eh. Ok, dai, già sono al baracchino. Ok. Sono qua, sono qua. Ehi Eugenio, guarda, se i poli sono uguali, troviamo all'istante questo ZC, ok? Già il posto già c'è, perché i furgoni di scarpa stanno tutto il giorno lì a scaricare merci, capito? Voglia? Oh, Eugenio, col microfono normale. E questo è il microfono normale, il suo. Interni a radio, più che prima. Sì Eugenio, ti devo dire che aumentare il trimmer della modulazione AM per i baracchini è quasi indispensabile, perché sennò escono più bassi, capito? Vengono strozzati, capito? Ehi, radio per la fresca, bene così, va bene questa radio, sì? Sì, è già forte di suo, per dire, mi. Ma no, rispetto a come ti ho sentito prima, adesso va bene la radio, anche con il microfono originale, capito? Vabbè, ti ricordo, sono sotto casa tua. C'entra niente se sotto casa. Cos'è successo? Marco! Aspetta! piatto un colpo sulla radio. E dove? Cioè a colpi va questa radio. Praticamente sai cosa succede? Che all'interno c'è la ghiera, ok? E magari ci sia la saldatura del PL in ingresso alla radio, che sia mezzo disaldata, non lo so io questo. Un attimino, Eugenio. Dimmi. Vabbè, quando sei sotto chiamami, eh? Devo ancora arrivare, ma quando sono in via Bugino ti chiamo. Ehi, Avalè, no, così va bene, così va bene. Questa cosa che dà un colpo alla radio e funziona non mi convince molto. Ho stretto troppo il PL e ha girato la ghiera del baracchino, della radio, boh. Non lo so, se tu dici che dai un colpo dall'altezza dell'attacco del PL e la radio riprende a funzionare, cosa ne so cosa c'ha io. È un difetto che io non ho mai visto, mai sentito. Ma Valerio? Sei a casa di Giuseppe. Non ho capito. Gliel'ho dato perché non c'era ricezione, ma era il suo PL, poi abbiamo messo bene il PL e la radio ha funzionato perfettamente. Che colpetto ho dato io? Non serve a niente il parametrico se tu non inserisci il compressore. Se il tattino del compressore è spento, ok, quello non ha nessuna funzione. No, del microfono sto parlando. Come no? Per quello fischia. Come non? Chiudilo, mettilo a zero il compressore del microfono, porca miseria ladra. Glielo avevo anche detto a Giuseppe. L'accensione di quel microfono è uno scatto solo e si accende la luce verde. Se tu le dai due scatti si accende anche il compressore. Adesso te la mando. Marco. Sì, ya. usando dei miei ho fatto la regolazione del trim che c'è interno, dell'amplificazione, com'è adesso? Come prima e com'è? L'amplificazione va messa a manetta. E il prescotto va a zero, non c'è altro da fare. Ok, vabbè, la modulazione mia quella. Quindi comunque sembrano più alti adesso, da poco fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oggi come vi senti? Ah, io ti sento bene, beh, io non so cosa intendano loro, non lo so, ti possono spiegare più loro, perché io ti sento bene, capito? Sì, Antone, tu uscivi bene anche prima, ma Eugenio ha una voce più con toni bassi ed era più cupo. L'ho notato, Eugenio, mentre Pomponi ha la voce da Topo Gigio, no? E quindi esce bene. E non la fino che la Topo Gigio. Come fai oggi a dire che lo senti bene, che è cupo in una maniera impressionante, non ha tonalità? Non so se voi conoscete i medio alti e i medio bassi, questo microfono non ha niente. Ma il mio baracchino riceve più acuto, ricordati Claudio. Sono col 440, ho attaccato anche la colonnina per darle un po' più di sensibilità, perché sicuramente chiude un pochino la colonnina esterna, ma non mi piace, non ha nessuna modalità di emissione radio questo microfono. Se divisati, non lo so, l'unico che sento bene col DM1000 è Gianni. Adesso già ricambio la capsula, vediamo se le azzecco la capsula giusta. Claudio, questo è il DM1000, ecco qua, DM1000 con batteria mezza scarica, distanza 10 cm, com'è? Migliore di Pomponio? Radio normale. Bravo, ti ha risposto Gianni, radio normale, ripeto e ribadisco, l'unico che io sento bene con DM1000 regolato bene è Gianni, gli altri sono tutti una gagata. Magari la batteria, boh. Ah, conta una cosa, questo baracchino, essendo omologato, c'ha il trimmer chiuso della M, capito? Vabbè, ecco qua. Sì, deve essere la batteria scarica, perché vedo che non sale nulla. Che apparato stai usando, Marco? Allora, il 3009, su questa 3009 col trimmer della M chiuso però. Ah, ho capito. Ciao, Gianni. Ehi, Luigi. Questo qua è il DM1000, guarda. Gli ho chiuso anche l'amplificazione adesso. A me questo non mi piace. Preferisco più Marco. Non lo so. Ce l'ha più chiara. Non lo so. Poi mi sa dato che ha orecchio. Non lo so. Boh. Hola. Parlate, vado sull'altro canale a regolare. Ecco Eugenio, allora, distanza 20 cm, questo è... Vai sul canale 8. Sì, a toni più acuti, guarda, distanza 10 cm, distanza 20 cm, così lontano tutto il braccio. Questo è il DM1000, lo ZG da palmo. Vedi un po' com'è la modalità, la tonalità, secondo te, com'è, Eugenio? A me piace il microfono, cioè ti fa la modulazione molto limpida, bella. Devo avvicinarlo un po' alla bocca. Eia, guarda, così sono a 5 cm dal mic, 5 cm. Questo diciamo che non amplifica molto, non amplifica troppo, però rimane più acuto, capito? Questo dovrebbe andare bene sul tuo. Quello che cos'è? ZG, ma... Sì, ZG M95, quello col bip, perché quello normale non c'era. E comunque la modulazione qua adesso com'è? Con il microfono originale. Va bene Eugenio, dove sei adesso? Adesso sono da Bicoman. Io ti ascolto bene. E tu come mi ascolti col DM1000? Cambio. Allora vedi, questa è la modulazione bella, non poco fa, questa è bella, bella limpida, con leggero ecco. Era da regolare oggi, perché me ne avevano fatto togliere l'ecco l'altra volta. L'ho tolto e poi era da regolare. Cava. Vabbè, avanti Claudio, questo qui è DM1000 col Cobra. Claudio è sul canale 8. Eia, sul canale 8 è Claudio. Allora, metti, ti faccio intendere anche lo VIP, mio Eugenio. bip doppio più il bip dell'apparato. Di Eugenio, questo qui il Cobra era un bell'apparato, non so se tu l'avevi visto. Sì, lo conosco il Cobra, lo conosco. Sì, mi piace un apparato. Vedi, a me il microfono che ha Marco, che sta usando adesso, mi piace. Amplificazione, sembra normale, sì, è chiara la radio, però non è amplificata. Sai cos'è già? Questo marchino ha il trimmer chiuso. Dovrei mettere quello col trimmer aperto per uscire bello espanso, capito? Ah, ecco. No, vabbè, comunque va bene, perché è chiara la radio, niente da dire. Solo che se tu dici che è un amplificatore non ce n'è. Probabilmente anche l'apparato si vorrebbe aprire il trimmer. Ah, poi una cosa, comunque lo ZG non amplifica mai troppo, quello è anche vero già, non amplifica mai troppo. Aspetta, quello di Luca, quello che fa Luca, che qui ha dato a Roberto Quadrato, amplifica bombe, ma avevo fatto modifiche, mi sa che le va a mettere la capsula. Sta fortissimo, Il microfono è l'originale e va per forza bene. Se esci bene, perlomeno a me, io ti ascolto bene. Ma già, com'è il segnale? Guarda un po' il segnale com'è. Va bene. Guarda un po', 1, 2, 3, cambio! Stiamo per Radio 5, cambio, dove sei? Sono nella discesione di San Giovanni, dai! Dove c'è il Marini? No, sta arrivando bene, Stiamo per Radio 5. Marino. Sì, cazzo, non c'è un numero di telefono di Marino io proprio. È da PME verso canale 7 lui, ogni giorno. Dovrebbe essere verso le 6:30 che entra. Non c'è anche adesso, ma io non c'entro in PME, no, devo chiedere una cosa di lavoro. Aspetta, lo chiamo io di telefono a gambe e poi ti do il numero di telefono io, no? Scusate. Sì, ma non dire in PME che lo sto cercando io, Ehi, va bene. Eia, Eugenio, Gianni. Eia. Dimmi Marco. Ecco, questo è l'apparato col trimmer espanso, quello nuovo adatto. E questo è sempre lo ZG da palmo, stessa distanza, vedi se è più forte adesso? Di brutto veramente. Gianni, tu cosa ne pensi? Adesso si sente la sensazione, Marco, prima non si sentiva. Eia, guardate, 10 centimetri, 20 centimetri dalla bocca, 20 centimetri così lontano tutto il braccio. Allora, meglio va, sì, sicuramente con l'apparecchio aperto va meglio. A 20 centimetri si sente ancora bene. Dopo il terzo passaggio, un po' più basso, però va molto meglio questo apparato, a voglia. Eia, Eugenio, a te piace Ghiscia, io regalo. Ma che apparato è? Il 3009, è il Jobix 3009, senza il frequenzimetro, e c'è il trimmer tutto aperto, come il tuo. Ah, ok. Ma questo ne abbiamo appena aperto il trimmer, della modulazione. Vabbè, già hai capito, sì. Sì, certamente. E beh, questo uscirà, come esce qua, uscirà col tuo apparato. E se più amplificato potrebbe valere la pena di metterlo, dai. Marco, va, domani, perché mi ha chiamato mia madre e ce l'ho veloce a casa, tu? Eia, va bene, dai. Riprendi Claudio. Claudio, riprende, Antonello, riprendi. Adesso sono al telefono io, un attimo. Ehi, Italia, ok. Gianni doppio Roma. Ok. Milbip doppio, sempre. Cioè, doppio più il bip dell'apparato, Cioè, da ripristinare il coso. E mi dà la 48 punti. Devo mettere il microfono. Bisogna che mi decidi a portarlo a me. Allora un 48 plus multi, cioè ancora il microfono non l'avevi messo originale, no? No, l'originale l'ho messo, però dava problemi perché c'era un filo che toccava, eccetera, eccetera, dopo l'ho cambiato per filo, però c'è anche il DM Mister. Eia. Ok, Eugenio sarà arrivato al Porto Torres, Eugenio si è arrivato? Attento Eugenio, dove si è arrivato? Caspita, se ti sentiamo, Natalia, voglia! Sta parlando Eugenio, ciao Natalia! Credo che sia arrivato perché non arriva qua. Sì, arriva, io lo sentivo, Eugenio, avanti. Boh, adesso non so più. Quando ha parlato la tavola c'era lui che stava parlando sopra. Natali, che visti ti hai gli hooligans l'altro giorno? Oh, scusate, ma stato a parlare che c'era un brutto incidente qua. Dopo Zappa, all'incrocio, al solito incrocio, dove c'è l'NP, c'è un brutto incidente. Ma dove c'è il video per Plattamona? Esatto, c'è un brutto incidente. Caccia, macchine capottate, roba del genere. No, penso che sia più frontale, capito? Ora 1, 2, 3. Ah, scusa, già. Ecco qua, questo è il DM1000 con l'apparato col trimmer aperto. Eugenio, tu che sei più lontano, dimmi com'è. Distanza a 20 cm. Adesso sì che salgono i picchi di modulazione. Guarda un po'. DM1000, 1, 2, 3, 20 cm. Così distante tutto il braccio. 20 cm, 10 cm. Com'è? Una bomba. Per me è una bomba. Ma allora è questione di voce, Eugenio. Io ho la voce più acuta. Tu hai una voce più cazzuta, più cupa. La mia voce è cupa, magari riporta a quello il microfono, l'ha visto. Natalì, ma io ce l'ho più lungo. Aspetta che stai sovramodulando Eugenio. È strano però che ci sia questa differenza, vabbè io ho la voce acuta un po'. Se modulassi così, con la voce così, magari sarei più cupo. Dimmi un po' Gianni. Ma è strano, perché se io uso il BC60 non ho la stessa voce che a Claudio, abbiamo due tonalità diverse, a lui va bene, a me no. Quindi non è strano, anche col tab, ma Talino ci va bene, a me non mi andava bene, state tutti due. Eia. Ecco, poi mettendo appena di eco. Ecco, meno ripetizione. Ecco qua. Cioè perché esce anche più forte già il DM1000? Perché quando li metti appena di eco, è come se entrasse in funzione un secondo modulatore, capito? Che si sovrappone all'altro. KK. Ok, dai. Va bene. Dove sei arrivato Eugenio? Radio. Eia, caspita, già col mic normale già, è un mostro. Sto dicendo che adesso va bene il radio, sembra qua. Ma qua, sarete con me? Sì, con te, col tuo microfono. Niente, ingresso in Porto Torres, non so qua. Ma il radio si sente sente benissimo, non è in lontananza, capito? Si sente molto bene. E anche io quando ho preso il Cobra non lo volevo toccare, poi mi ha detto dai padre, è uscito molto più bene. Sì, è quasi necessario aprire la modulazione. Mi Gianni, questo è il 3009 col microfono DMC 507, che sarebbe un mic normale, vedi un po' com'è, tipo quella di Eugenio, o meno forte. No, già va bene, va, diciamo che è una radio normale, però va bene. Eia. Ok, sì, mic normale, non è quello originale. L'originale aveva il cordone troppo duro, non riuscivi, se ti lascinava l'apparato, questo è bello, è più morbido, più elastico, capito? Quindi vedi, mic normale, va più che bene. E vabbè dai, poi quando ci vedremo proverà lo ZG, magari poi non gli piace di colore, mi col tasto il giallo. Sì, Santiago 6. Sto a traffico. Poi è sceso a 5, Santiago 5. Tu sei tutta a tratta. E adesso mi è sparito però, se sta parlando è sparito. Ciao Eugenio, a dopo, Santiago 4. Buono, buono. Ma a sbaglio c'è un po' di propagazione oggi già? Io non sento niente. Ma a tratti ti arrivava a te? Beh, ovviamente il segnale oscillava, poteva essere 4, 6, faceva così. Oscillava ovviamente, no? E quindi vuole togliere la Turbo 2001, che è troppo lunga per un furgone, a mettere la Turbo, la Mini Turbo, uscire. Ma già è facile da tarare, sì, già la Mini Turbo, o da Rogne? No, non è da di Rogne, ma nei palazzi, ma per dire, non si sentono, le Rogne sono quelle, invece con la 2001 ti ascoltano basso, ma ti sentono, invece con quella lì non ti sentono proprio per niente, c'è proprio ostacoli e cose, non si sentono, basta che c'è lo stacco che ho appena aperto l'antenna e quello è il problema. Strada libera va bene, ma se sei in città al limite può mettere un 747, è già notevole la cosa, poi per l'ascolto vabbè, l'antenna corta è un compromesso. Guarda, un compromesso ottimo sarebbe non 2 metri, non 1 metro, ma 1,50 m, tipo la mia è 1,60 m ed è una via di mezzo, dai, non è troppo corta, che poi non è, da 1 metro non è troppo corta, dai. Poi quella è grossa, anche c'ha una larghezza di banda anche buona, a turbo, mini turbo, dai. Vabbè, vedrà lui, dai. Mi sto grattando la testa selvaggiamente, mi piace, lo sai. E poi mi diventa il cuoio capelluto rosso. Se vai i pidocchi del gatto? No, il gatto non è a pidocchi, casomai ha qualche pulcetta, ma le pulci non si attaccano a testa. No, mi piace, siccome sono abituato a decenni e decenni di alisciate da paterigie, mamme, eccetera, no? Mi piace la scute, no? Si è sensibilizzata, a furia di farmi coccolare e grattare da tutti, no? E allora mi piace proprio grattare la testa, mi dà piacere, e certe volte gratto così forte che la cute diventa rossa in quel punto, lo sai? Beh, ti credo, ve l'hai io, Ma va vero, vanno le pulci il gatto, non ne metti le medicine? Sì, dobbiamo fare il trattamento, è appena iniziato, il mese prossimo, perché siamo in ristrettezze economiche, lo prendiamo, dai, e facciamo il trattamento a tutte e due le gatte. Vero Flo, di qualcosa. Sì. Questa non parla, questa non miagola mai. È raro che miagoli. Mi. Aspetta, tutto l'anno che l'ho fatto. Ogni mese. Poi che fine mese si mette la medicina. Eia, perché esce anche fuori? E qua bisognerebbe fare un trattamento d'urto, meglio farlo. KK, quindi Claudio al telefono, chi ci è rimasto qua? Facciamo un appello, Popponio ci sei? Popponio non c'è, Natalino ci sei? Cacchio, prima solo modula, poi non entra. Cosa vuoi tu? Ma ci vuole accucciare sulle palle il gatto, perché è calda la zona, no? Ecco, si accucciasse, bella, bella. Ti piacciono le palle del padrone, eh? Sono palle calde. Oia. E se non ti pari vivo. Ah, tu finisci qua. E va. Giorastia, eh? Io ho detto a Pompugno, cos'è la giorastia? Non lo so io, non lo so come fare lui. Non sa niente Pompugno. Vabbè. Se vi parli magari di cosi, spagnolo, come si chiama, brasiliere, allora sì. Un attimo. Dici Claudio. Diciamo qua un attimo. Fai pure. Capito, ho detto parlare di brasiliana per essere esatto. Lui sa solo parlare di mignotte brasiliane, di quelle che stanno a Sassari Vecchio, Nicola Diesi. Io ho sentito, ho visto su Facebook che cosa hanno usato, che praticamente quando c'erano quegli hooligans d'Italia, di cosa cacchio erano. A un certo punto, quando sono arrivati al corso, che stavano facendo al corso, sono usciti tutti quanti negri in greffa e dice che come hanno visto a loro mi sono bloccato. Vabbè, la nazionalità è quella, mi. Africani, quelli là e africani neri, capito? Se gli africani si capiscono. Oh, è una che ha filmato l'Asturia, capito? L'ha filmato. E praticamente dice che sono usciti questi battuti dei tipi di colori, dice che c'è vista questa onda nera, era un insieme di non so quanti erano adesso perché non li ho contati, però erano tantissimi. Mamma mia, e anche io mi sarei spaventato. Magari gli hanno detto, noi mettere in culo. No, sicuramente dice è interpretazione di chi legge, però probabilmente sono andati a difendere la città dove sono spizzati, capito? Perché hanno visto la città che era minacciata, allora sono andati a difendere la città, perché stavano salendo al corso. Beh, è una cosa buona, dai, che questi che noi aspettiamo siamo usciti per difendere la città, è cosa buona e giusta, dai. Forse l'italiano avrebbe avuto più paura, lo sai. Gli italiani si cagano, non tutti certo, ma sai, molti hanno paura di battersi o finire nella rissa e quindi stanno ben chiusi a casa. Invece quelli, ah, hai visto i neri, ah? Mozambo. Con noi eccetera eccetera, per dire la volta di Plata Mona che è caduto quel muretto, sono stati i primi a soccorrere quei ragazzi, hanno tolto tutti i fasci per liberarsi. Buonasera a tutti. Buonasera padre. Chi c'era? Buonasera padre. Buonasera figliolo, pace bene a tutti. Quando è? Chi è? Sono i canti dei confratelli, cantano bene però. sente? Radio Magna? Radio Magna? No, no, non lo sto sentendo. Ascolta, devo chiamare ancora, come mi sentite? Perché c'è stato un piccolo incidente che è partito il cavo, l'ho sostituito. Devo sapere se c'è qualche variazione in meglio, mi auguro, o in peggio, speriamo di no. Sentiamo per Radio Cinque. Vediamo qua un attimino che c'ho il gatto tra le palle, nel vero senso della parola. Vai Gianfra. 1, 2, 3. Vedi un po'. Prova, prova. Qua il segnale è alto, è poco meno di Claudio, quindi immagino sia ottimo. E mi pare più alto di quella volta che hai detto che l'antenna aveva danno. No, questa volta una piccola vista e... trincia erba, ha trinciato anche il capo, comunque poco male perché era una cagata di 213, quindi già gli hanno fatto un piacere. H1000 forever, tu cosa useresti, l'H1000? O c'è di meglio volendo, di dimensioni accettabili, dai? No, come per le antenne principali, le due grosse, il Flex, che è un tubo praticamente, infatti non si può mettere in canale, è sotterrato direttamente, mentre per le HF c'è il Messi Paoloni, che è un po' meglio dell'H1000. Ho già fratti, Rubinia, ci avevo le repeghe in chiuso, infatti mi sembra abbastanza. capita. E sono andato a controllare apposta perché mi è venuto il dubbio. Sono arrivato, molto bene, molto molto bene. A me non capita. E tu sei un santo? Sì, proprio santo non direi. Ogni voce, Natali, io finirò all'inferno, lo so. Siete anche da Mulli che ha detto chi è da sopra. Oh Gianni, il problema è però con Marco, in che girone bisogna mandarlo? Io. Ma sta lì, cosa gli hai fatto a questo microfono? Nulla, non gli ho fatto niente perché il microfono è normale. Questo qui che ha fatto è quello installato a campo. È un grido di attività. Se lo li fa a forza. Ma scalda? Ehi, se fai botta risposta già scalda, è come se scalda. Già, ci avevo il volume regolato per te Gianni, è entrato Antalino, ogni voci. Ma questo devo dire che io sono pazzo. No, ma il tuo è più equilibrata come emissione, Antalino è... Chi sogni ti vuoi che farà amico a mettere l'antenna sopra il tetto? Si taglieranno il cavo i vicini. Ma se mantieni via lì, via. Mandato la tariffa. Oh, e quindi ci... Ricordati Natalino che devi morire. Ma io ne avete soldi, usciamo. Io ne avevo soldi. Cosa? Io ho speso tutto, guardate che c'è una persona bassa che chiama, Claudio, vai tu. È un genio, cosa hai detto, genio? Guarda come sto scendo adesso. Sempre cupo, sì, sempre cupo. No, venuto da là, sempre cupo Antonella. Bene ma cupo. Quella commissione me l'hai fatta. Sì, ma guardate come chiamare lui, ma bravo, che mi serve il numero di telefono. Sempre cupo, sì, Antonella. Sì, adesso avete la cattola, adesso quella del vostro testo, quella vostra, perché quella originale sua, è sua e la mandola. Questa è vostra, come è Marco da te, con la palla di esso, guarda un po'. No, no, è molto peggiorato, per carità, adesso sei in cupo barattolato. Non lo rovinare quel microfono, rimettilo com'era, che casomai se lo vende. Mettili la capsula originale, che almeno era passabile qua. Qua ricevo acuto ed era passabile, era cioè buona per me. Non glielo rovinare quel microfono, che se lo vende. Rimettili quella originale, non tocchese, la tocchese. Dov'è? Dov'è? Com'è? Com'è? Va bene, bene. Allora rimetto quella del 1800. È uguale a quella originale. No, ne metti di quella originale che poi se lo vende. Fidati, cazzo. Non mi fare bestemmiare, mi. Guarda che quella del 1800 monta la forza, mi sento insomma, che la uguale in tutta quella mano, e non lo guardo, Sì, ma siccome c'ha l'originale, mettili l'originale, che poi ce lo vende, e si prende lo Zeta Jimmy, sa. Sì, vabbè, non so, l'altro vi metto, la faccia solo mi va sul controllo, ok? Ah sì, è quasi uguale a quello che ho io di qui, di 26, aspetta che attacco il 26, vediamo di differenza, c'è? Bobo. Allora, dicevamo che girone, quale girone mi mettono? Non lo so, lussuriosi no, ormai nemmeno più quello. Non lo so, l'istigatori c'è, lussurioso girone di istigatori c'è. Guarda un po' Marco, questo è del 6, com'è? Io senti con radio di 2, Marco, questo è del 6, è uguale a quello che c'ha lui, solo che senza ecco. Mi tocca la presentata, com'è? La valutazione buona? Sì, buona. Questo è del 6, è uguale identico a quella, forse ne avrebbe, ma dopo ne ha solamente una, e c'ha il 5T, mi guarda. Se ci mancava il 5T. Gianfranco. Questa è buona rivoluzione, è chiara, tutto. Questo è quello uguale al tuo, solo che solo amplificato e basta, non c'è nient'altro, questo è quello uguale, è il del 6 questo. E comunque, c'è la stazione che sta chiamando, è sotto. Io l'unico che ascolto bene è Gaudiello, ecco, c'è Marco, non c'è da fare. Marco e Gianni. Sì, va bene, aspetta che gli metto la capsula, quella là, la sua, e poi rientro subito. C'è qualcuno che stava chiamando avanti. Io non sento nessuno, fra fallo e parli tu. Stavo parlando. Oia, cosa c'è? Io mi devo sistemare il cane se volete uscire. Ditemelo, se no non porto nulla. Claudio, io sarei venuto ma non aggio di là. Allora, comparete ad un altro poco di cose dai bei. Lo so, io il 3 prendo i soldi, se voi se li restituisco da voi, ma decidete. Ma chi te l'hai preso? Ti ho cercato del comparato, tutta contesta, l'hai preso, cosa del comparato? Niente, cose per la casa. Claudio! Gloria! Ma scusa, te lo ricordi? Te lo ricordi? Quando ti arrivate la casa? Da mio buco? Santiago 7. Ecco, adesso facciamo una prova, riguarda il segnale, sono il qui e qua, dove che sto entrando. Ma c'è l'antenna corta? No, l'antenna sopra quella là del 1. Vai, vai. Massimiliano, chi è mai entrato bombolo e guarda tu la modulazione? Se li ha due punti di raccordo. No, allora, aspetta, tu mi stai fregando. Da sotto casa tua, nella posizione dove tu moduli col camper era 5. L'altro giorno tu stavi provando, ti sei spostato ed era 7. stessa posizione, arriva con lo stesso segnale della 2001. Qui arrivi lo stesso segnale che c'hai da casa addirittura. Hai capito, Quindi quell'antenna c'è nel camper, funziona benissimo, benissimo, è lo stesso segnale della 2001, non cambia niente qua. Strano. Va bene. Un po' più forte rimane questo del baracchino che c'è nel camper, un po' più forte la radio. Mettitela a casa questa la radio, ci mette l'urano se è furgone. Riposti così oggi, cercando di zippicche e picche. Ci sentiamo più tardi, ciao. Ok, va bene. Ma cosa fai Massimilia? A passi o esco? Cosa devo fare? Esci, tranquillo. Ma comunque le viti le ho messe solo quelle di sopra, quelle laterali non le ho messe. Così appena vieni te lo faccio vedere. Ma penso che l'hai vista quella scheda appoggiata così al case con una vite. Quella lì è tutto il coso, capito? Ehi, va bene. Dimmi Giuseppe, stai tutto fischiando. Mamma mia. C'era Valerio lì e andava benissimo. Girando Valerio esce tutto un fruscio. Per carità. Ho mandato la registrazione a Valerio di quanto stava arrivando bene. Di nuovo punti a capo. Ma perché non si prende un baracchino che è più semplice? È fisso, non devi stare a regolare compressori e le cibo. Io la proposta gliel'ho fatta, no? non so cosa dire. Io c'ho un bel bacio, ci mettiamo d'accordo e lui è a posto, tranquilla, sereno. Ma il Telsa? Ehi, Avalì. Ascolta, ma hai abbassato la potenza? Figura di tu. Lasciala così, lascia. Va bene, anche la potenza ce l'aveva al massimo. Ti dico di bruciarla, lascia radio. Ce lo credo che andava in tilt. Lasciagliela a caldo a 50 watt. Lasciala a caldo, così a 50 watt va bene. Va bene, dai. Ciao, Valè. Allora, ragazzi, io vado a portarmi il cane, sistemarmi il cane. Voi decidete cosa volete fare, ok? Bianco, per me, a dopo. Ehi, ma così d'improvviso, Claudio? Poi chi siamo? Se si va? Quanti siamo? Perché siamo? Non lo so, fatemi portare il cane e poi decidete intanto, io arrivo subito. Guarda, se io avessi avuto 20 euro o comunque i soldi sarebbe venuto subito. Ok, dai, a dopo. Gianni, ci sei ancora? Sì che ci sono. No, ma io il cane sì, sempre più tardi, non fa adesso. Non adesso. Sono dalle 8. Dopo le 8 ho altro da fare, non ce la faccio. Poi non ce la faccio. Sarei anche venuto, ma ho da fare roba a casa. Eia, no, infatti ci si organizza meglio prima, dai, così a Raptus viene male. E poi sono in bolletta, sono. E poi ho prestato anche 50 euro a mamma, capito? E io non capisco come può essere, li ho prestati il giorno prima, il giorno dopo, di sera. Già ci hanno rimasti 15 euro, ma come? Non capisco dove si rispende questi soldi. Mi sa che è meglio che cominciare che le amministri io sono lì in casa. Capito? Perché qua mi. Non lo so, non è possibile che uno si spenda 35 euro comprando nulla poi, nulla ha comprato. E magari ha fatto spesa per casa, non lo so, guarda che c'è fratello Marco, io quando vado a fare la spesa di supero i 50 euro, 55 euro, 56, certo faccio la spesa, diciamo, dei più frigoriferi, eccetera, eccetera, compro carne, compro tutto quanto, però, a volte arrivi anche a 70, ripeto, quando fai la spesa è così, si escono, non se ne accorgono almeno. Vabbè, però, cioè, vedendo quello che ha comprato, ho detto, non è possibile che si è speso quella cifra. Mi sa che li dovevo ammaestrare io. Cioè, Enrico, cosa ti serve? Un litro di latte, la pastina per il brodo, per dire no. Vabbè, se no non c'è motivo perché lei non riesce ad arrivare a fine mese. Siamo in due e non riesce ad arrivare a fine mese. Com'è possibile? Cioè già dopo il 15 siamo in crisi e il problema è che lei quando si vede solo in mano impazzisce e si sbilancia all'inizio, no? E poi non arriva a fine mese, ma porca miseria. Vabbè, ne riparleremo poi. E vabbè, è proprio la donna che così ha la sindrome da sciuca. Però non compra nulla, come diciamo che compra, che ne so, sigarette, cioè non fumo io che sono uomo, sto sempre con queste sigarette, quindi già non l'ho vista spegnendo né una, accendendo l'altra, ma quando mai? Poi lei non aspira nei polmoni comunque, almeno quello, però basta con queste sigarette, non servono a niente, se vuoi sentire il sapore di mentolo, ripidi a quella mentolo, beviti un bicchiere di menta. Pidi la menta, la bicchiere con l'acqua ti fai la menta, beh, mangiati delle caramelle alla menta, mangiati dei tic tac, cosa ne so buio, c'è bisogno di fumare sigarette al mentolo. Ma poi devo sbottarmi. Ciao Franco. Mi ha chiamato? Sì, io riprendi, dici qualcosa. Il girone mio dovevamo decidere. Ok, che poi perché come sono io Gianni, dovrei finire tra gli ignavi, dovrei finire tra gli ignavi, quelli che nella loro vita non hanno mai, diciamo, conseguito una meta, quelli che tipo me, capito? Che praticamente inseguono in eterno un'insegna senza un cartello che non ha scritte, capito? Nel girone dei golosi. Goloso sì, vedi. Goloso sì, ci metto la firma. Lussuriosi no, ormai ho appeso l'uccello al chiodo. Condannato a essere inseguito da un mega gelato che si vuole mangiare. Frappe. Pace bene a tutti. Ti ricordi padre Francesco quando entrava ti dice ti faccio baciare il cordone, il cordone. Se vuoi la soluzione tira sto cordone, diceva. E alludeva a un altro cordone, non il cordone del frate, ma un altro cordone. Bene, e troppo togera, poi quando rideva, che quando Paoletto si incavolava, lui si diceva la durazione e rideva, faceva ah! Già me lo ricordo. È un bel appassionato di uccisi, c'ha canarini, c'è queste cose qua, ha sempre avuto un po' di uccisi. Eia, ho detto a mamma, allora riprendiamo gli uccelli in gabbia, so che mi piange il cuore vederli in gabbia, capito? Proprio gli uccelli dovrebbero volare belli, tranquilli, invece metterli, mamma mia, in una gabbietta è proprio come mettere uno in galera. E se c'hai gatti non ti conviene, fanno di tutto per mangiarlo. Ehi, siccome non conosco Flomi, già quando c'era il pesce rosso stava sempre a girare l'intorno sperando di... Se vedi gli uccelli fa due occhi neri a dollaro, mamma mia, io dico che riesce anche a prenderli, infatti non so se convenga, ma è per vedere anche la reazione del gatto, vedendo questi uccelli in gabbia, sarebbe sempre lì, mattina, sera e notte, sperando di... No, io se ne trovo mi ricopro le capi per Uvia, che ce le ho per voi, mia moglie, quando hanno fatto i figli mi ha fatto prendere il pezzo, non ne ha più voluto, erano bellissime, ci avevano i piedi ricci, il pelo ricciuto, troppo belle. Oh, tua moglie non ne poteva vedere di quegli animali, no? Sì, perché sporcavano, bisognava cambiare la paglia, c'era un po' di spesa, ecco, perché devi stare sempre comprando paglia per cambiargliela, se li volevi finiti, però poi mi hanno dato la soddisfazione di fare i figli, hanno fatto i figli già con il pelo, tutto quanto, e mangiavano già da soli dal primo giorno, te li mangi? Ciao, vi saluto e sto facendo cosa, dai, ciao, ciao. Ciao, vado giù, grazie. Ciao, qua, non ho problema, figurati. Ma come hai visto, è corto, c'è il tantonello. Ma che abbandono, Guido, cosa? Sto scherzando. Grazie, giù, ci sentiamo, dai, fatti sentire. Vado a portare il cane, ciao a tutti. Ok, qua, sì, stavo facendo cosa stasera, tutta la sera. Ok, ci sentiamo, saluta a tutti, dai. Ciao, riprendi pure Gianni o Marco, dai. Sì, ciao Gianni, ma sì, buonanotte, ciao Giulio, ben entrato, sento che la voce è migliorata anche. Sì, diciamo che sono bene adesso, dai, adesso la voce è ritornata alla sua, almeno credo, poi staremo a vedere se continua così. Ok, riprendo, dai, sono all'ascolto perché sto facendo cosa, nel primo. Sì, va bene Giulio, ben sentito comunque, dai. Sì, così Antonello è tardo nel reagire, diciamo, nel fare le cose, così. Comunque Claudio, Gianni non può fare nulla, non può uscire, quindi cosa vuoi fare? In due minuti ce la vuoi organizzare? Già andato, è da. Ciao Giulio, dai. Buon pomeriggio, ascolta. Ciao Marco. Ehi, siamo solo noi già. Claudio, se non so se volesse organizzare, usciamo, cosa fai così? Se siamo in pochi, cosa esco? Io e Claudio, che sembriamo due finocchi, sembriamo. E a prendersi un caffè, magari, aveva il caffè, al quadrato. Ma io non posso fare nulla perché ho da fare a casa, non posso farne a me. Da un pochetto di roba qui, mi sono preso un attimo di relax proprio perché non voglio andare di continuo dal lavoro a casa eccetera, mi sono preso un po' di relax al baracchino, poi dopo che finiamo qua vado, porto il cane e così. Ricordati il mio motto: non rimandare a domani ciò che puoi benissimo rimandare a dopodomani. A me piacerebbe uscire anche tutte le sere, adesso d'estate va bene, io esco col cane, non lo lascio a casa da solo, se fate qualche cosa, andate al bar e cose, io me lo porto, intanto lo fate entrare da tutte le parti. Eia, vabbè che se era per pigliare un caffè e una boccata d'aria già lo potevi fare già. Tempo mezz'oretta, vabbè, vediamo dopo. Chi ha parlato sotto, avanti? Io ero, aggiunto, vai così. Sì, ho fatto vedere stasera per andare da Auchan, ho fatto vedere a mamma l'antenna a mezz'aria, ho detto, quella è un'antenna da macchina, tenuta da un tubo, in modo da poter modulare, infatti il segnale è buono, giustamente. Beh, buono, ha detto se li permette di modulare è buono, meglio che metterla dentro casa, tu è come che fossi in macchina mio, o Natali, come se fossi in barra mobile. Io ce l'ho nuova, non l'ho mai piazzata, l'avevo comprata in condizione di comprarmi una macchina nuova, avrei messo quella, poi ho cambiato idea, delle cose mi hanno fatto cambiare idea, quindi non ho più preso la macchina, è rimasta la nuova. Scusate un attimino. Ascolta, Natalì, se vuoi quella piazza, domani mattina io sono in bottega, ti avvicini, dopo le 10, vabbè, da 10 fino a mezzogiorno e mezzo sono in bottega. Ehi, andalo, ce la faccio già voi. Va bene, ci sentiamo, ciao, riprendi, scusate, se prendi pure il mio Marco. Ciao, ok. Bene, caspita, c'è una corrente fredda in questa camera che non avete idea. Mi sto gelando le, le, le caviglie, lo sai, che ho le calze sottili, i calzettini sottili, mi sta venendo freddo alle caviglie, adesso chiudo un po' di roba, perché mamma c'ha questa mania di aprire tutto, ma non se ne accorge che ancora l'aria è fredda. Sì, dice, mamma c'ha queste manie, queste manie, diciamo, varie manie fisse di fare cose, e più glielo dici e più lo fa, ci glielo dici un milione di volte, lei per un miliardo di volte continua a fare la stessa cosa, e vabbè, sarà la vecchiaia, non lo so, l'arteriosclerosi, non lo so, c'ha queste piccole fissazioni, non pericolose, ma questo di lasciare le finestre sempre aperte, far entrare una corrente fredda, o non lo so io. Sì, che entra la corrente, navegando dentro i ladri che non andavano. No, vabbè, ma poi chiudiamo, solo che poi gli ho detto, non dare da mangiare i piccioni che portano pulci, salgono sul davanzale, portano pulci e poi si attaccano al gatto. Gli ho detto in tutti i modi, gli ho detto urlando, gli ho detto per favore, come favore personale, niente, lei continua a buttare riso ai piccioni. Gli hanno preso a voce tutte quelle del palazzo, le hanno detto che chiamavano anche da, che ne so, qualcuno, perché i piccioni stanno sempre qua, stanno sempre facendo la cacca qua. Gli hanno detto in tutti i modi, a Bozzi, a cose, niente, lei continua a dare. Dopo quel periodo che è stata male, le sono venute queste manie, queste fissazioni che non le togli dalla testa, boh. E vabbè, in bacende. Io te l'appoggio. Ma la batteria è nuova e si sarà guastato. Con gratuito. Marco. E io. Vabbè, come va adesso? Guarda un po'. Oh, sembra con la capsula originale forse. Quasi quella lì, eh. Guarda, sono chiamate il foro. Guarda un po'. Com'è? È gelato, sì. Boh, non lo so. Non lo so. Ma il discorso è quello, Antonio. Tu vai bene perché le voci acuta. Invece cosa la voce più cupa, esce cupo, punto, non c'è altro da stare a lui gli serve lo ZG da palmo, capito? Se va bene, è proprio capace che glielo regalo pure. Ma spesso non ce ne sia bisogno, comunque si sta facendo chiara, capito? La voce appena per il foro interno e basta. La capsula sua originale, boh, capito? Come sto scendo di alta a te, com'è? A me va bene, va bene. Non c'è molta amplificazione, ma si sente bene, la madre è chiara. Questo è DM1000, questo che sto usando io, così. Questo si chiama DM1000, cambio. Pizzo. Guarda un po', uno, due, tre. Così, è veloce. E così è lento. 1, 2, 3. Cari fratelli e sorelle, benvenuti. Vai a Panguala. Questo è il DM1000, anche questo è il DM1000, Antore. A te piaci? Anche io la voce acuta, capito? Se avessi quelle voci così, quelle voci mazzute, come dico io, uscirei più cupo, però ho la voce da castrato e quindi esco bene. Brava. Alleluia. Facciamo Papa Pomponio, te le immagini? Papa Pomponio, vedomi. Cioè Papa Pomponio primo, capito? Pomponio primo. L'arello. D'accordo. Così con contendole, hai visto? Esce bene il microfono. Già finora. Ale, canta, se ti vuole sentire mia moglie, come il Papa. Vai, che ce ne fuggono Massimiliano, vai, a non fare. Chi vuole sentire la voce? Aspetta. sempre Voitila. Tutto quello che toccate, mi si secca in mano. No, aveva detto, aspetta com'era, se mi sbaglio mi corrigerete, perché lui era polacco e quindi la lingua non la sapeva bene. Bene, Gianni, dicono che per esempio qualcuno preferiva Wojtyla perché era bravo ma stava più sulle sue, era più una figura più autoritaria, no? Leggermente. Hanno criticato Papa Francesco perché, non lo so, si infila troppo al popolo, che se gli danno da bere, lui beve, ti ricordi? Gli danno da assaggiare una cosa e lui l'assaggia, cioè dovrebbe essere più austero secondo alcuni. Gianni, tu cosa ne pensi? Penso che sia uno che l'altro erano dei grandi papi, sono dei grandi papi. E poi ognuno c'è il suo carattere, lui è molto più aperto a tante cose che gli altri papi non erano così. Ha aperto la chiesa ai divorziati, ha aperto la chiesa ai gay, eccetera, eccetera. Lui ritiene che tutti siano pazzeschi, che tutti abbiano diritto di andare in chiesa. Questa cosa a me mi è piaciuta tanto, a me mi commuove questo fatto, quando lo sento parlare diciamo le lacrime, non lo so, mi fa questo effetto, l'altro no, anche se era bravo eccetera eccetera, ma anche se tu mi fa questo effetto qua, lo sento molto umano. Sì, e poi essendo francescano, fosse anche più povero, non sempre con quell'abito bianco. Invece Wojtyla era più austero, cioè vestiva proprio con tutti, con la tiara papale, no? Con quella, insomma, con tutto l'abbigliamento di gran pompa, no? Mentre Francesco è più popolare, non popolare, come dire, francescano, è detto tutto, basta dire francescano, è detto tutto, no? Questo è più povero, più normale, capito? Si è vissuto in terre dove c'è molta povertà, riesce a capire certe cose, capito? Molto sensibile in una persona, io la vedo così. Ognuno ha il suo parere, però io la vedo molto sensibile nei confronti del flusso. Prende i bambini in braccio, scende dalla macchina per andare a salutare gli ammalati, che avete in carrozzella, queste cose sono cose che ti toccano. Eia, mi ha fatto ridere quando quello gli dava una bibita da assaggiare, lui la beveva, ma metti che fosse un matto che gli dava il cianuro, cioè queste cose anche possono essere pericolose. Può esserci un macu e si mette in mezzo alla folla, gli dà da assaggiare qualcosa da bere, e questo lo fa questo papa, hai visto? Perché è una persona semplice, una persona che come la vedi è. Dimmi Natali. Quello è vero, sì, però è così, lui è... pensa a quel brutto periodo che ha vissuto in Argentina, negli anni 70, che se non stava attento lo ammazzavano pure. Ciao raga, io vi saluto, là. Io vado a portare gli utai, anche già ora, non sembrerebbe mai già ora. Sì, è vero già, io prima era alle 7:15 e si vedeva il sole fuori, vedevo il sole passare dalla finestra, ho detto che schifo, a me piace più quando fa buio presto, però dipende, per esempio se devi andare tipo a pescare fa più comodo il buio fino alle 8, no? Cioè la luce fino alle 8, che uno si prepara tutto, no? Eccetera. Ah Natalie, guarda che devo ancora controllare quel sito per il tesserino per la pesca in mare. Quando c'ho il link te lo mando, ok? Da compilare. come può fare, ma basta andare in capitaneria, per dottore se lo fa. Ma perché devo andare in capitaneria se c'è online? All'online, perché ti chiede la password a volte, capito perché te l'ho detto, a volte chiede la password. E se tu non la sai, sai, non entri. Comunque io, vabbè, lo devo fare anche io. Andrò, io non posso stamparlo perché stampante non ne ho. Oh, ma ce l'avevi e si è rovinata già. Marco, non fa qua a parlare, praticamente non ce lo può fare mai. La prima volta che l'ho stampato io a Natalino, se ce lo ricorda, permesso per andare a pescare, l'avevamo fatto insieme, se lo ricordi Natalino? Io non so se aspettare o farlo già. Se aspettare un po'. Cos'è questo abbrutto? Ah, comunque il Ministero Politiche Agricole, capito? Lo dà. Aspetta che se mi apre la pagina, un attimino. Che poi che senso ha? Che senso ha? Sei gratuito ancora? Perché devi fare il permesso? Ma è una stronzata. Che fanno dei censimenti per vedere chi va a pescare, eccetera, eccetera, poi in quanti sono le persone che vanno a pescare. Serve solo per quello, non è un permesso, serve solo per quello. Papa, aspetta, cosa sto leggendo? Sul sito ufficiale si avvisano gli utenti che la comunicazione per le attività di pesca sportiva e ricreativa in mare è temporaneamente non disponibile. In attesa dell'emanazione del nuovo decreto di proroga dei termini per la registrazione su base volontaria, ai fini di statistici relativi a tale comunicazione, si ricorda che non sono previste sanzioni in caso di mancanza di registrazione o mancanza di esibizione. Ah, così è. Non sono previste sanzioni in caso di mancata registrazione o mancata esibizione alle competenti autorità. Cioè, farlo o non farlo, sanzioni non ce le, così è. E che stronzata è? Adesso lo fanno per fare un censimento. Comunque, se non va lì, alla capitaneria, vai, verso le 10:30 ce lo fa. Io una volta sono andato a portarmi l'acqua, ho portato il tesserino mentre stavo scaricando l'acqua, me l'hanno fatta. Adesso purtroppo non guido più qui. Non posso più farlo, molte cose sono state tagliate, prima se ricevivo una cosa mi fermavo, me la compravo, eccetera, eccetera, ma adesso posso più fare, non so, sempre nei negozi, quindi queste cose non le posso più fare. Eia, insomma, credo che è bloccato, c'è un decreto sotto, ma risale al 23 marzo 2016, e vuoi vedere cos'è? Vabbè, dai, insomma, averlo o non averlo, finché non si sblocca la cosa non ti fa nulla, non ti fanno nulla, capito? C'è il vecchio, ti esibisco il vecchio, era valido fino a dicembre, però se lo fanno fino a dicembre, per prima lo facevano per 2 anni, adesso fino a dicembre te lo blocco. Oh, mi è scaduto da un bel, e non è nemmeno sfruttato, lo sai, me lo sono fatto e non ho pescato nemmeno, né sub né a canna. L'unica è metterli tutti, mettere pesca subacquea, mettere compilazioni, tutto quanto, perché se ti capita fare un altro tipo di pesca, poi non puoi farlo, se non ce l'hai. Sì, infatti, conviene segnare per le caselle o quello che è, canna, filaccioni, mi pare che c'era anche, devo specificare se era pesca la barca, meglio metterla, metti che un amico abbia la barca, ti faccia pescare dalla barca, no? A me non piace la pesca dalla barca. Io ho pescato, ma non c'è gusto. Andavo in alto fondale, grande dispiace, ma con lo stesso stato lì, perché noi ci prendo un uso. Che merda di connessione, scusate, non prende qua, non prende, non me lo fa aprire, vabbè dai. Comunque diciamo momentaneamente sospeso, quindi io attendo notizie. Attendo notizie, poi già lo faremo, dai. Ok. E chiudimela sta pagina. Mamma mia, c'è bestemmio, guarda. Marco, a me l'altra volta è stata la capitaneria perché non mi faceva entrare, mi ha chiesto la password per entrare, io non sapevo qual era, sincerato. La password del deciso, e chi lascia la password? Io non ne ho mai messo. Con Natalino la volta l'abbiamo fatto, la password non me l'ha chiesto, abbiamo fatto l'appartamento di musica, adesso mi chiede la password per entrare. Allora sono andato in capitaneria, un giorno che devo caricare l'acqua, gli ho portato, ma lo fa, sì, lascialo qua che quando è finito è già pronto. E me l'ha fatto in bianco e nero, che è. Ehi, a caspita quanto sto stanno te, no ma... Ecco. Poi vediamo, sto guardando altre notizie, ma non mi apre la pagina, ecco. Altre notizie dei siti informativi. Nuovo decreto, aspetta un po'. Vabbè, dice licenza di pesca e mare 2016, un nuovo decreto la lascia gratuita, però per il 2016, dice per ora, che schifo, pure pagare per il mare, mamma mia. Non fare quello, volevo metterci. Io sono qua. Eia Claudio, eia, stavo guardando... Sì, si riferisce al 2016, per il 2017 ancora forse ci deve essere una novità. Ora ci abbiamo parlato in due con Gianni, ma io sono rientrato. Io adesso vado, ci sentiamo, statemi bene. Ciao, va bene. Eia. E non me lo apre, mamma mia, meglio mi. Claudio, dimmi tutto, dove volevi andare tu? No, volevo uscire, mia moglie te, ma però se non siete disponibili non è un problema di denaro, se non siete disponibili per andare in due. No, infatti per andare in due no, Gianni purtroppo deve fare roba in casa, riesce a vedere, se è più piccolo non potevano scrivere. Ah, ma questo è del 2016, ormai non vale più per il 2017. Articolo unico, la validità... Mamma mia, quanto mi stanno sulle scatole queste scartuffie. Fanno tutti i riferimenti, il riferimento all'articolo... Ebbè, sì. Questi decreti ritenuto necessario nella... Mamma mia, che palle... fine garantire, dice e non dice niente praticamente, è prorogata al 31 dicembre 2016, e quindi, comunque è scaduto, si è compreso, ma tu ce l'hai la licenza per la pesca in mare Claudio, perché per adesso è bloccato tutto, non puoi chiedere il tesserino nuovo, stanno aspettando un nuovo decreto. No, non è mai venuto io, come ho fatto la lavoro all'Asi, cos'è? Non mi bisogna di nulla, io sono sempre entrato. Però non lo so. Appunto non lo so che cosa ci vuole adesso. Allora, si chiama un altro. Infatti, magari se era per prendersi un caffè si poteva fare, ma sai, siamo solo in due. Rimandiamo quando siamo in tanti, dai, ci pigliamo anche più gusto. Certo che sì. Kappa. Comunque questo me lo segno, Tutto bloccato per adesso per chiedere nuovi tesserini. E dice Claudio... Aspetta, ricorda che non sono previsti sanzioni in caso di mancata registrazione o di mancata esibizione alle competenze delle autorità, capito? Bisogna aspettare il nuovo decreto e poi chiedere il nuovo tesserino. Per adesso non... me lo salvo questa pagina, me la salvo così in caso di controlli. Beh, salva però. Aspetta che faccio una telefonata. Fai, fai. Eccomi. Male ti è andata, è arrivata la pappa. Magna, magna, non ti preoccupare. Salva, salva, così è. Giuseppe. Prova a parlare. Parla, parla, dimmi qualcosa. Va bene, allora buona cena, dai. Non tocca di niente che stai andando magnificamente bene, avevi anche la potenza troppo alta. Sì Giuseppe, ma la potenza era troppo alta e magari la radio andava in protezione, è per quello che che si bloccava, capito? Stai andando bene, lasciala così, con quella potenza, il microfono va bene, poi se dovessi rifare quel problema, allora ci faccio un salto io, me la prendo e la controllo a casa, ma penso che problemi non ne abbia, era solo magari qualche falso contatto, oppure la potenza troppo alta, quindi la radio andava in protezione, stava soffrendo troppo, capito? Ehi, andrà bene, non ti preoccupare. Ok, buona cena, sono qua in ascolto, ciao. Ah, un pezzetto di pane alla buona, tanto per gustare. Va bene, invece c'è Marco che sta cenando, anzi sta pranzando, perché lui a quest'ora pranza, Giuseppe, capito? Capito, capito. Vabbè. Comunque già vai bene, adesso è. Non c'è problema. Oh, così è. Ma lo sai che anche qua stanno scendendo a terra i gabbiani, soprattutto la notte. Capito? E purtroppo si posano anche sulle antenne, però io fortunatamente ho antenne direttive molto robuste. Quindi non sto subendo danni, ma il gabbiano è pesante, bisogna stare molto attenti. Figurati tu. Figurati tu, quindi proprio un casino, dai, con questi gabbiani. Altrimenti ti arrestano pure, capito? Beh, me l'immagino, perché fa un sacco di danno, tra l'altro. Così abbiamo fatto 13. settimana che ho dovuto cambiare tutto il capo. Quasi 9:30, sì. Ho già fatto. Quindi qualche cosa è stato più rispetto al solito? Sì, sì, forse almeno 5 dB. Addirittura. Un colpo di trincia e la è stato tutto schiatto. D'altronde l'erba è alta in questo periodo. Diserba Gianfà, diserba. Se non c'hai niente che può danneggiare, diserba. Tagli l'erba, diserbi e la tagli a settembre. No, non ne utilizziamo diserbanti qua. Neanche per scherzo. Meglio lascia perdere quella porcheria, se c'è anche il pozzo tra l'altro. No, infatti ho detto se non c'è roba, io le aiuole, la Valle d'Oria, quelle zone lì faccio diserbare, perché sennò ogni due giorni, tre giorni con l'acqua che c'è è sempre tutto bagnato e stai sempre dei cespugliatori in mano. Però è all'interno dell'impianto, quindi non c'è niente che possa danneggiare. Va bene, è il cavo molto importante. Il cavo, se non è buono, è un casino. Io ci avevo il 213 sulla matta perché era completamente nero, figurati. Anni, anni, anni. Quando ho messo la Camilla nuovo, sono rinato. Segnaloni, meno QRM, meno tutto, stazionari è zero completamente. È il cavo importante, sì. Io c'avevo, ormai c'avevo un bello spezzone di cavo, è un cavo particolare, un po' per impianti a microonde, da lampe, no? Quindi il top del top. Ho usato quello per una antenna per 26, non può esagerato, ma quello ce l'avevo. Vabbè, ma tu cosa hai messo? Io quando ho fatto l'impianto nuovo ho messo tutto nuovo, tutto nuovo completamente, non c'è niente di vecchio, tutto. Anche l'ispezione che fanno al commutatore, il cavo discesa per amato, il cavo discesa per le 2, le U. Tutto nuovo, perché era mamma mia, uno schifo era. Sì, io ho messo un cavo che si assomiglia alla Camille, però è sicuramente superiore perché c'ha più rame. È stato usavamo per le microonde, anche se usato era buono, quindi ha mantenuto tutte le sue caratteristiche. Purtroppo capita, per il sicuro adesso non passa più, però passa sopra direttamente, va da lì al traliccio e poi scende. Non lo so, aspetta, ascoltando un messaggio, ecco qua, mi ha mandato un audio. Mi serviva una cosa per domani. Ok. Va bene. Però c'è freddo, Scusi, sta andando dall'alto al basso. Ma chi sta parlando? No, non ho capito. Hai detto... Ho detto dove stai ascoltando? Ah, sul link nazionale digitale. Sul ponte di Ciauristano di Ucelli. Scusa, ma la voce conosciuta quella? No. Il centro è sul coso nazionale. Li puoi ascoltare anche tu, su quella all'affare. Che sto comandando. Sì, io ascolto tutto lì. Tutto. Anche... quella roba là, sì, ogni tanto lo metto a ascoltare, ma io sono sempre qua e seguire una cosa e l'altra non è che mi piace molto, quando non c'è nessuno qua sono sempre lì che ascolto, capito? Sono sempre lì che ascolto in DMR, come si chiama. Va bene Gianfra, dai, pronto alla cena, sono meno 25, finalmente è diventato buio. Ci andiamo a cenare, poi un po' di TV e domani si continua la settimana. Ti saluto, grazie per le due chiacchiere, a domani Gianfra. Ciao. cena alle prossime. Buonasera a tutti. Ciao, ciao Gianfranco.